Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. E allora, oggi volevamo affrontare il tema del famoso piano casa per cercare di capire e spiegare ai nostri ascoltatori cosa possono fare gli interessati a ristrutturazioni e lavori di ampliamento della propria casa secondo i nuovi criteri in corso di studio da parte del governo. Fino a qualche giorno fa circolava una bozza di decreto sulla quale si erano già spese molte interpretazioni. Adesso potrebbero esserci di nuovo dei cambiamenti alla luce delle dichiarazioni rilasciate ieri dal Presidente del Consiglio Berlusconi e anche alla luce dell'esito che avrà oggi l'incontro fra governo e regioni. Noi oggi non vogliamo entrare nel merito né della polemica politica, naturalmente Salva Danaio non è lo spazio giusto, né nel merito delle questioni ambientali. Vorremmo cercare di fare semplicemente, per quello che è possibile fare sulla scorta di quello che si ha fino ad ora, un punto della situazione e poi, se il provvedimento verrà varato venerdì dal Consiglio dei Ministri, non mancheremo di tornarci in tempi rapidi, perché il tema della casa, come lo mettiamo, lo sapete bene, suscita sempre un enorme interesse da parte di tutti. Allora, chi abbiamo interpellato questa mattina? Il collega del Sole 24 Ore, Saverio Fossati. Saverio, bentornato. Buongiorno a tutti. E poi sentiremo tra qualche minuto anche l'avvocato Eugenio Correale, capo ufficio studi della NACI di Milano. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, per le vostre domande. Tenete ben presente il fatto che naturalmente viaggeremo molto con l'utilizzo del condizionale questa mattina, per cui però coglieremo sempre molto volentieri le vostre considerazioni. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Un'occhiata alla borsa, ne abbiamo parlato rapidamente anche poco fa nel giornale radio, c'è un quadro contrastato in Europa questa mattina che ancora una volta mette in luce la prestazione di Piazza Affari. Positiva per lo 0,58% sull'S&P MIB, mentre Parigi sta perdendo lo 0,6%, Francoforte sta perdendo lo 0,7%, Londra lo 0,88%. A Milano stamattina acquisti molto intensi su STM più 5,32%, sul Banco Popolare più 5,29%, tra l'altro il titolo è stato posto anche brevemente in asta di volatilità per consistenti ordini di acquisto, è rientrato in contrattazione dopo che stamattina perdeva il 3%, poi è volato dell'8%, adesso fa più 5%, come vi dicevo. Il gruppo comunque ha rassegnato i conti del 2008, sono in rosso per 333 milioni di euro. Il gruppo ha deciso di non distribuire dividendi, ma forse questi dati erano già stati ampiamente scontati dal mercato e oggi si preferisce guardare avanti. Bene anche Mondadori più 4,32%, Eni più 3,22%. Generali più 2,67%, nei prossimi giorni c'è l'assemblea degli azionisti, Ansaldo più 2,65%, A2A più 2,86%, il mercato invece non è particolarmente entusiasta dei conti della Popolare di Milano che sono stati anche in questo caso comunicati nelle ultime ore. Il gruppo richiederà Tremonti Bond per 500 milioni di euro. Il peggior titolo è però Intesa San Paolo, è corso però molto negli ultimi giorni, più meno 2,73%, Unicredit anche torna a perdere circa 2 punti. E poi abbiamo avuto anche il bilancio 2008 di UbiBanca, il gruppo che distribuirà invece un dividendo agli azionisti. Oggi a Piazza Affari perde l'1,12%. Sospesa per eccesso di rialzo, magari raccontiamolo, SEAT pagine gialle dalle 11 di questa mattina quando guadagnava il 21%, anzi sono per la verità i titoli di risparmio ad essere sospesi, le ordinarie sono sospese anche dalle 11.37 quando i titoli appunto guadagnavano il 16%. La società ha siglato un accordo con Google per diventare rivenditore autorizzato in Italia di un programma pubblicitario che permette alle piccole aziende di promuovere i propri prodotti. Insomma, una buona notizia che forse a questo titolo serviva, visto che è stato il peggiore in assoluto dall'inizio non tanto del 2009 quanto del 2008. Insomma, in borsa si comporta malissimo da molte settimane, quindi almeno oggi c'è un po' di recupero. Euro su dollaro a 1,3495, possiamo lasciare i mercati per entrare nel merito del tema di questa mattina. Cerchiamo di capire quello che si sa fino a questo momento del famoso piano casa. Scricchiola il piano casa, che in attesa del Consiglio dei Ministri di venerdì prossimo accusa già i primi colpi di assestamento. Ieri, infatti, il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha parzialmente smentito alcune delle notizie circolate nei giorni scorsi. Secondo le affermazioni del Premier, le nuove norme escluderebbero gli immobili urbani e riguarderebbero solo case monofamiliari e bifamiliari o costruzioni da rifare. Ma in cosa consiste il piano casa? In base alla bozza del decreto diffusa venerdì scorso, sarebbe consentito ampliare del 20% la cubatura del proprio appartamento, della casa di proprietà o di un negozio commerciale, purché ultimato entro il 31 dicembre del 2008. Se l'edificio è disabitato, diroccato o inagibile, è possibile abbatterlo e ricostruirlo, aumentando la cubatura del 30%, percentuale che sale al 35% se la ricostruzione avviene utilizzando le tecniche di bioedilizia o investendo nel risparmio energetico o idrico. In nessun caso, però, l'ampliamento potrà superare il limite di 300 metri cubi e l'altezza di 4 metri oltre a quelli già edificati. Altri limiti sono imposti dai vincoli di legge sulle aree gravate da inedificabilità assoluta, sui parchi nazionali e regionali, sugli immobili abusivi e quelli situati su area demaniale. Infine, il piano casa prevede la possibilità di cambiare la destinazione d'uso dell'immobile, questo indipendentemente dall'aumento della volumetria. Intanto, in attesa di certezze che potrebbero arrivare oggi, in seguito alla conferenza tra governo e regioni a Palazzo Chigi e dal Consiglio dei Ministri di venerdì, già si parla di una platea di potenziali interessati, pari a circa 9 milioni di edifici tra ville e villette. La gamma degli interventi possibili va dalla costruzione di nuove stanze alla chiusura di portici e verande, fino alla creazione di taverne e alla trasformazione del sottotetto. Altri 2 milioni di immobili abbandonati e fatiscenti potrebbero invece essere ricostruiti sulla spinta di un premio del 30% in più. 800 24 00 24 è il numero verde per gli interventi degli ascoltatori, mentre arrivano già messaggi anche un po' polemici al 349 238 6666, soprattutto sull'utilità della trasmissione di oggi. Qual è lo scopo di commentare oggi il piano casa se non sapete cosa dice il decreto e se verrà recepito dalle singole regioni? Argomenta Max Geometra di Ferrara. Saverio, so che sei d'accordo, in realtà noi facciamo il nostro lavoro oggi, siccome in realtà a fronte magari di chi contesta, molti altri ascoltatori chiedono di aiutarli a capire qualcosa in più della materia, se in prospettiva avranno o meno il diritto a cambiare la destinazione d'uso della propria abitazione, del proprio immobile, dell'immobile di propria proprietà, l'immobile di proprietà, oppure se potranno ampliare, chiudere una veranda, modificare una tavernetta. Insomma, il piano casa è piuttosto articolato, oggi ne sapremo qualcosa di più. Tra l'altro, Saverio, tu ne avevi scritto già 2 settimane fa con il collega Cristiano Dell'Oste in un pezzo per Il Sole del lunedì del 16 marzo intitolato "L'Italia delle villette progetta nuovi spazi, dal portico alla stanza in più se i provvedimenti del governo diventeranno legge". Che cosa cambia con le dichiarazioni di ieri del Presidente del Consiglio? Che cosa viene escluso se quello che lui ha detto, insomma, verrà portato avanti? Ma viene escluso quella che era considerata la grande speranza di molti proprietari di unità immobiliari in condominio. Non dimentichiamoci che il condominio vive più o meno la metà degli italiani. Moltissimi hanno un balcone, molti hanno un terrazzino e da sempre sognano di trasformare il balcone in veranda e di costruire sul terrazzino qualche cosa che in qualche modo ricordi una stanza. Ecco, sembra di capire dalle ultime parole di Berlusconi che i condomini, cioè gli edifici urbani, sarebbero esclusi dalla possibilità dell'allargamento. E come Berlusconi, peraltro, va detto, non è vero, ha sempre dichiarato fin dal principio, indipendentemente dai disegni, delle bozze di disegni di legge che uscivano, l'intento era di quello di allargare i famosi 9 milioni di villette che affollano la nostra penisola, soprattutto in pianura e sulle coste. È ovviamente un'operazione molto più semplice, forse un'operazione anche di minore impatto paesaggistico, l'allargamento del 20% di un edificio già esistente in una zona, diciamo, di edificazione a case unifamiliari o bifamiliari, magari di minore impatto rispetto appunto alla chiusura dei balconi o alla costruzione di edifici sul terrazzo, alle sopraelevazioni in città. Forse magari questo limite va anche nell'interesse di chi cerca di tutelare il decoro e l'arredo urbano. Un'ultima nota va fatta, e cioè le città comunque sono numerose, le villette nelle città, non è che non ci siano, quindi bisogna poi capire cosa si intende con queste voci relative ai centri urbani che sarebbero esclusi dalla possibilità, dalla misura. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime ore. Perché Saverio. In ogni caso adesso vedremo come verrà meglio formulato questo provvedimento, ma è stato preso a modello il piano casa della Regione Veneto. E perché le regioni sono interpellate in queste ore? Intanto il decreto legge ha appunto una serie di vizi formali proprio dal punto di vista costituzionale. Parliamo sempre delle bozze che giravano in questi giorni, però io so che i colleghi di tutti i giornali avevano più o meno la stessa bozza, che era la bozza uscita dal Ministero, quindi non è che era un testo misterioso inventato dai giornalisti. Proprio all'articolo 1, il comma 2, stabiliva che le norme del presente decreto trovano applicazione su tutto il territorio nazionale sino all'emanazione di leggi regionali in materia di governo del territorio. Era una formula un po' prudenziale, perché in realtà tutto ciò che attiene l'immobiliare riguarda le regioni. Uh-huh. Questo è scritto nel nuovo titolo quinto della Costituzione, no? La politica della casa riguarda le regioni. Infatti, quando ci fu il famoso condono edilizio del 2003, in una situazione analoga, il governo dettò per decretazione d'urgenza delle disposizioni che le regioni impugnarono, perché andavano a invadere un campo che era di esclusiva competenza delle regioni. Non c'è una competenza concorrente, ma una competenza esclusiva. Infatti poi intervenne la Corte Costituzionale. Sembra che lo stesso errore sia stato ripetuto adesso. Forse non è un errore, perché io capisco che si voglia smuovere, diciamo così, le acque per costringere le regioni a fare delle norme poi apposite, diciamo, di diniego o di accoglimento di quello che sarà scritto in questo decreto legge. E così, come è avvenuto col condono edilizio del 2003, di fatto si crea una situazione un po' a macchia di leopardo: regioni dove si possono fare sanare abusi, regioni dove non si possono sanare abusi, regioni dove si potranno fare ampliamenti e regioni dove non si potranno fare. C'è anche da ricordare, adesso non so poi se questa è un'osservazione pertinente, che il piano casa prevede anche misure per il rilancio dell'economia, quindi tenta anche di aggredire una situazione oggettivamente difficile che riguarda un po' vari settori economici. Forse per questo si decreta d'urgenza e si fanno degli errori, come ci è capitato anche di osservare nei mesi passati quando abbiamo parlato delle altre misure che sono intervenute appunto per cercare di affrontare la crisi in questo momento. Saverio, vorrei che ti mettessi la cuffia, fino a questo momento non l'ha messa, quindi confessiamo un po' anche ai nostri ascoltatori quello che capita dietro le quinte della nostra trasmissione, perché io direi di cominciare anche a far intervenire i nostri ascoltatori per capire quali sono gli interrogativi più diffusi sul tema che affrontiamo questa mattina, e poi magari attenendoci alle dichiarazioni di Berlusconi di ieri, cerchiamo di capire quali sono gli interventi che proprio più banalmente potrebbero partire nell'immediato con questa misura. Allora, sentiamo Giovanni dalla provincia di Pisa subito. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Sì. Senta, io ho un terreno turistico ricettivo, una zona che di turistico ricettivo non c'è niente assolutamente. Ho già edificato due villettine, ho da farne altre quattro. Sì. Ma dico, in questo caso si può cambiare destinazione d'uso, anche quella congiuntura che c'è, a chi l'affitto questi appartamenti? Giovanni, allora sentiamo, perché il tema della destinazione d'uso tra l'altro è molto molto molto ampio, e leggevo che almeno nella sua formulazione iniziale il decreto legge non mette vincoli al tipo di destinazione richiesta. Sì, diciamo, se ci basiamo sulla bozza che gira, dice: gli interventi di cui il presente articolo possono anche consistere in tutto o in parte nel mutamento di destinazione d'uso con o senza opera edilizia. Questo però è un'espressione un po' scura, perché sembrerebbe, facciamo la classica ipotesi, villetta di 150 metri quadrati, io posso cambiare la destinazione d'uso a tutto oppure solamente a 30 metri quadrati, cioè al 20% di questi 150 metri, oppure posso fare un ampliamento cambiando la destinazione d'uso di questo ampliamento rispetto all'uso abituale, all'uso già stabilito della villetta. Ecco, la logica vorrebbe che i cambiamenti di destinazione d'uso riguardassero l'immobile già esistente nella sua interezza, no? Devo anche dire che questa è una leva che i comuni usano molto, no? Per spostare più o meno, diciamo, l'assetto urbanistico, la pianificazione urbanistica in una direzione o nell'altra. Per esempio a Milano è molto facile cambiare da casa a ufficio, da ufficio a casa, è praticamente impossibile cambiare da capannone, no, d'ex opificio abbandonato a destinazione abitativa, che è il problema delle aree dismesse di Milano. Perché? Beh, perché il comune, per ragioni sue di politica urbanistica e fiscale, decide di rilasciare con contagocce questo tipo di mutamenti. In altri comuni invece non è così. Ecco, infatti, quindi con questo articolo sembrerebbe crearsi una sorta di liberalizzazione, però molto, diciamo, con effetti abbastanza imprevedibili e complessi, per quello che è molto difficile capire cosa vuol dire esattamente questo articolo. veicolo, se puoi cambiare la destinazione d'uso della tua abitazione come ti pare, oppure solo relativamente al 20%. Effettivamente questo è un interrogativo che è rimasto. Tra un po' ci collegheremo con l'avvocato Eugenio Correale per affrontare anche la questione dei condomini. Intanto un'altra domanda, che è quella di Alessandra da Siena. Alessandra, benvenuta. Alessandra? Alessandra ha abbandonato il telefono, evidentemente fra un po' la recuperiamo, non si è accorta che la stiamo chiamando. Allora, l'Italia delle Villette, dicevamo, progetta nuovi spazi. Saverio, andiamo a quelli che potrebbero essere i lavori più diffusi qualora, nella formulazione che conosciamo, il decreto passasse in questo modo. Prendiamo ad esempio un esempio che tu hai appunto individuato per questa pagina che ho citato prima del Sole 24 Ore di lunedì 16 marzo. Una villetta monofamiliare di 120 metri quadrati a cui si possono aggiungere, secondo una così un'ipotesi, due camere da 9 metri quadrati ciascuna e un bagno da 6 metri quadrati. Questo è, come dire, l'ampliamento possibile secondo quanto individuato dal decreto fino a questo momento. Beh sì, direi di sì. Sono camere un po' piccoline, naturalmente sono le classiche camerette dei bambini, ecco, non è certo una camera matrimoniale, però possono rappresentare una soluzione efficace per la classica coppia che si appresta ad avere figli o ha appena sfornato uno o due figli, e quindi va benissimo. Del resto era proprio questo che aveva in mente Berlusconi, l'ha sempre detto espressamente: la cameretta in più per i figli, il bagno in più in una casa magari un po' vetusta e che è stata costruita magari grande ma con un bagno solo, oppure il laboratorio, no, che uno vuole costruirsi per farsi le sue cose, insomma le soluzioni poi sono più o meno quello, oppure molto pratiche, la tavernetta, oppure una sala giochi, no, una tra l'altro voi avete anche quantificato i costi possibili per un lavoro, diciamo, molto standard, no? Per questo caso la spesa media potrebbe essere intorno ai 1500 euro al metro quadrato, per un totale di 42.000 euro incluse le spese per sanitari. All'intervento vanno aggiunte anche gli oneri comunali, quali sono? Beh, sono i contributo d'oneri da concessione, insomma il costo di contributo di costruzione. Tra l'altro gli oneri concessori sono ridotti al 50%, dice sempre la bozza che sta girando, in caso si tratti di prima casa, anzi di abitazione principale, mi correggo, che è un termine forse più esatto. Sì, i costi sono più o meno quelli, variano fra i 1.000 e i 1.500 euro al metro quadro, i costi, diciamo, che si pagano all'impresa per allargarsi, quindi non è certamente una grande cifra e certamente la casa si rivaluta dopo che è stato fatto un intervento del genere. Naturalmente bisogna anche molto considerare il criterio estetico, perché quando si allarga una villetta anche solo del 20% si interviene su un corpo edilizio che ha, si presuppone, una sua armonia, e quindi bisogna stare abbastanza attenti a fare un lavoro che si fonda bene con quanto già esiste, altrimenti viene fuori una cosa che non è che sia uno scempio dal punto di vista paesaggistico, perché chi passa di lì non è che se ne accorga neppure se c'è una cameretta in più, ma è uno scempio dal punto di vista proprio dell'edificio. Quindi quando poi lo si va a vendere si scopre che la valorizzazione sperata è magari assai minore, proprio perché è stata fatta una cosa brutta. Quindi consigliamoci anche con degli architetti, ecco, infatti, non solamente in base alle proprie idee, alle nostre esigenze, alla volontà comunque di allargarci a tutti i costi. Allora, ci sono altre domande di altri ascoltatori. Emanuele da Como, le chiedo ancora un attimo di pazienza perché volevo anche sgombrare il campo da un altro equivoco con Saverio Fossati. Per un lavoro di questo tipo, ammettendo di avere magari una villetta monofamiliare di 120 metri quadri a cui voglio aggiungere due camere e un bagno, non è che poi ci viene la tentazione anche di chiedere le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni 36% e quant'altro? Stiamo parlando di cose completamente diverse, quindi chiariamolo subito. Ecco, sì, purtroppo come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate molte volte nel corso di questi anni del 36%, che ormai compie gli 11 anni, l'ampliamento non rientra fra le opere agevolabili, perché non è né un'opera di restauro, né un'opera di recupero edilizio, non è una ristrutturazione, e quindi non si può, non si riesce. Ma se faccio questi lavori secondo i criteri di bioedilizia e tutti gli altri aspetti che devono essere affrontati, posso avere il 55% del risparmio energetico? Si può avere il 55% sui lavori che hanno una funzione di risparmio energetico, ma costruire un muro non è che una funzione di risparmio energetico. Fare il cappotto al muro, il cappotto termico al muro, ha una funzione di risparmio energetico. Installare una nuova caldaia da condensazione ha una funzione di risparmio energetico. Mettere il pannello solare sul tetto dell'ampliamento ha una funzione di risparmio energetico. Ma la casa nuda e cruda, mattoni e tegole e finestre senza doppi vetri, non è risparmio energetico. Però insomma le due cose potrebbero incrociare la loro strada. Naturalmente, molto dipende da come poi si stila la fattura. ringrazio Massaverio Fossati, le cuffie stamattina proprio non le vuole mettere. Eccoci ritrovati in diretta, Salva Danai, oggi affrontiamo il tema del piano casa sulla base di quello che sappiamo fino a questo momento. C'era una bozza di decreto che circolava fino a qualche giorno fa, su quello sono partite le molte interpretazioni, sicuramente anche giornalistiche, ma insomma interpretazioni che si basavano su quello che la bozza di decreto definiva. Poi ieri ci sono state delle dichiarazioni del Premier che ha limitato il campo d'azione escludendo da possibili interventi tutto l'ambito condominiale, e oggi c'è poi l'incontro delle regioni perché sicuramente avranno l'ultima parola rispetto a tutti i possibili interventi che sarà possibile fare in edilizia. Detto questo, oggi però ci piaceva in ogni caso sollecitare l'attenzione dei nostri ascoltatori su questo argomento e abbiamo chiamato Saverio Fossati, collega del Sole 24 Ore, per parlarci di tutto quello che si sa fino a questo momento, e poi al posto dell'avvocato Eugenio Correale che avevo preannunciato fino a poco fa abbiamo invece Giulio Benedetti, sostituto procuratore della Repubblica di Milano, collaboratore del Sole 24 Ore. Come la devo chiamare, magistrato, dottore? Benedetti, buongiorno. Mi chiami Benedetti, va bene? Va benissimo. No, tra l'altro, adesso a parte gli scherzi, un esperto di tematiche condominiali, ma anche, mi suggeriva Saverio Fossati, di violazioni commesse in edilizia, per cui anche in questo caso sicuramente l'interlocutore più autorevole per le tematiche di questo tipo. Allora, io avevo interpellato Correale, dottor Benedetti, per la questione dei condomini, no? Perché Correale scriveva nei giorni scorsi, interpretando anche in questo caso quanto definiva la bozza di decreto, la facoltà di ampliare le costruzioni esistenti anche creando nuovi vani ha già acceso l'immaginazione dei condomini o condomini, fra i lavori in pole position, i recuperi di una marea di sottotetti da rendere abitabili o l'istituzione di autorimesse sotterranee. Detto questo, da quello che è possibile apprendere fino a questo momento, condomini esclusi da tutto questo? Ma pare che siano, innanzitutto buongiorno a lei, buongiorno, grazie di aver risposto all'emergenza. E tutti coloro che ascoltano la radio e che sono intervenuti. Il discorso sul condominio o non condominio è importante, aspettiamo quello che verrà deciso, ma quello che per me è molto importante dire agli ascoltatori è che questi interventi dovranno essere realizzati con la dichiarazione di inizio di attività, sì, che è un atto che viene fatto da un professionista. Ecco, bisogna stare molto molto attenti, perché questo è un atto che si inserisce in una procedura pubblica, per cui se non viene redatto in maniera veridica, cioè con affinché i volumi dichiarati siano quelli veri esistenti, vi sono le possibilità dei reati di falso, che sono sanzionati molto pesantemente, e per il professionista può essere anche intrapresa la procedura presso l'ordine di appartenenza per le sanzioni disciplinari. Quindi è importantissimo rivolgersi a dei professionisti validi, capaci, competenti, perché altrimenti si rischia di fare dei grossi pasticci. Ecco, questo è un po' il messaggio che io volevo dare. Ma infatti, quindi insomma, si può anche immaginare di poter fare tutti i lavori possibili alle nostre abitazioni, poi di fatto c'è qualcuno che può dirci esattamente quanto abbiamo la facoltà di fare e invece dove dobbiamo dare un freno ai nostri desideri, no? No, al fai da te, rivolgersi ai professionisti validi, e ci sono, la massa dei professionisti è validissima, che prima dell'intervento dica cosa bisogna fare, come fare, non chiamare il professionista a cose fatte e cercare di forzarlo ai propri desideri, che non sono quelli giusti. Insomma, se si è fatto 5, 5 deve essere dichiarato. Perfetto. Ecco, quindi è importante rapportarsi con il professionista prima di iniziare i lavori. Ci sembra un'indicazione assolutamente utile. Allora, Emanuele da Como era in attesa da un po' e sentiamo un po' che cosa si domanda. È caduto, eccoci qua. Insomma, stamattina veramente con questi telefoni ce ne capita una al minuto. Edvige dalla provincia di Milano, buongiorno e benvenuta a Salva Danaio. Buongiorno, io le telefono per un problema del sottotetto. Io abito in un piccolo paese in provincia di Milano e sono al limite del centro storico. La mia casa è una casa di tipo colonico ed è fatta con due appartamenti. Io ho chiesto tempo fa di alzare il tetto di 70 centimetri per poter installare il fotovoltaico e il solare e poter mettere sotto tutta quella che è l'attrezzatura e così. Mi è stato detto di no, perché o faccio un appartamento o lo alzo fino a 2,40 in modo da poter fare un appartamento, oppure alzarlo di 70 centimetri non esiste. Volevo chiedere se con queste misure allo studio del governo per lei si potrebbe... Posso... aprire questa opportunità, Edvige, la ringrazio molto. Grazie allora, a lei, buongiorno. Saverio dipende intanto dal comune in cui Edvige abita, oppure il decreto può far aprire davvero questa opzione per la nostra ascoltatrice? A me sembra che le intenzioni siano proprio quelle di facilitare una case come quella dell'ascoltatrice, cioè case monofamiliari, bifamiliari, cielo terra, e quindi questo ampliamento del 20% diventa il suggello, diciamo, autorizzativo al suo desiderio, perché è vero che in Lombardia si può rendere abitabile il sottotetto, no? Tuttavia è molto discussa la possibilità se si possa o non si possa, e in Lombardia peraltro sembrava che si potesse alzare il colmo del tetto per poterlo rendere abitabile. A questo punto, dato questa possibilità del 20% di volumetria abitativa, sicuramente casi come questo verranno facilmente risolti. Alla luce poi positivo. Del fatto che vuole installare anche il pannello fotovoltaico? Beh, questo lo aiuterà semplicemente però ad avere lo sconto del 55%, perché il fatto di installare o meno il pannello fotovoltaico non ha a che fare con il diritto a usufruire di questo 20% in più. Semmai, ecco, nella nuova versione del decreto c'era la possibilità di demolire e ricostruire un edificio con un bonus volumetrico del 35%, ma questo nuovo edificio doveva essere costruito con i criteri della bioedilizia, termine quanto mai vago e discutibile. Quindi non basta, per così dire, mettere un pannello solare perché tutto l'edificio sia dal punto di vista della bioedilizia compatibile e corretto. Sono proprio due aspetti diversi. Dottor Benedetti, invece la sopraelevazione, cioè la trasformazione di un sottotetto in un'abitazione, in un stabile condominiale, come viene disciplinata? Ma noi stiamo parlando sempre senza avere nulla di fronte a noi. No, in realtà le chiedevo come è stata disciplinata fino ad ora, se comunque è possibile fare questo lavoro. Allora, bisogna chiedere l'autorizzazione all'assemblea dei condomini, ovviamente, perché comunque i lavori coinvolgono delle parti comuni. Questo è il discorso principale per quando si agisce nel condominio. Poi ovviamente vi sono delle leggi regionali che facilitano questo. Noi abbiamo visto qua a Milano il recupero del sottotetto, però il passaggio attraverso l'assemblea del condominio è fondamentale, ecco. Quindi l'importante è passare attraverso questa autorizzazione. Prima di fare tutta l'autorizzazione da parte del proprio condominio, perché si parte con quello. E poi ovviamente presentarsi all'assemblea con un progetto ovviamente di fattibilità per sottoporlo all'approvazione, perché l'assemblea potrebbe anche opporsi, no? Infatti, ma... Ecco. Emanuele, lo abbiamo recuperato? Emanuele dalla provincia di Como, eccoci qua. Grazie a lei. Volevo porre una domanda riguardo al caso mio specifico. Sì. Io mi trovo ad essere proprietario di un appartamento, o meglio di due appartamenti, terra-tetto in pratica, però inseriti in una zona di corte nella provincia di Como. Sì. In questo caso non è un condominio e non è nemmeno una villetta. Come si può configurare il due appartamenti, un'unità abitativa bifamiliare, Saverio? Ma il condominio, dal punto di vista giuridico, è un condominio, è semplicemente un edificio dove c'è più di un proprietario. Ma questo non credo che sia ma non caso. È che nella legge si sia mai detto è vietato applicare nei condomini. Sembra che la differenza fondamentale sia fra i centri urbani, cioè i luoghi urbanizzati, e le ville e villette, che pur magari essendo in quartieri di ville e villette, però configurano una situazione extraurbana. Quindi se un edificio, per quanto grande, è monofamiliare o bifamiliare, come ha detto più volte il Presidente del Consiglio, e si trova in un contesto extraurbano, molto probabilmente sarà fra quelli che potranno beneficiare di questo 20% in più. Tra l'altro, il fatto che siano due appartamenti collegati dal tetto, questi del caso appunto di Emanuele da Como, mi fa così venire in mente anche di affrontare un altro aspetto, quello dell'ampliamento in contiguità. È vero che posso eventualmente comprare spazio anche dal mio vicino? No, è stato negato. È stato negato questo ieri nelle conferenze stampa che si sono susseguite. Questo aspetto era contenuto nella formulazione del 19 marzo della bozza di decreto legge, che diceva che resta salva la possibilità di avvalersi dell'asservimento dell'aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare. Quindi cosa voleva dire? La classica ipotesi contigua, un'unità immobiliare contigua. Questo voleva dire che due piccoli edifici, due palazzine, adesso stiamo parlando sempre di questa situazione delle villette, no? Delle piccole, piccole costruzioni, due villette contigue, una delle due poteva, per così dire, decidere di comperare questo diritto del 20% dal suo vicino che non ne voleva usufruire, praticamente allargandosi del proprio 20% più il 20% del vicino. C'erano però dei limiti invalicabili, che sono i 4 metri d'altezza e comunque impedisce di fare due piani. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci si può allargare però sul terreno. Se uno ha il giardino, esatto, si allarga, anziché fare un piano più, fa due ali alla propria villetta utilizzando appunto il proprio aumento volumetrico e acquistando quello del vicino. Poi c'erano tante altre possibilità che adesso non stiamo qui a elencare, ma quella più frequente sarebbe stata probabilmente questa. Ma hanno detto che sarebbe esclusa. E insomma, lo sapremo poi nei prossimi giorni se questa opzione verrà reintrodotta o meno. Ultima parte di Salva Danaio, dedicata stamattina, ovviamente con tutto il condizionale del mondo, al piano casa che in queste ore il governo sta discutendo con le regioni. Abbiamo avuto un po' di marcia indietro ieri rispetto alle formulazioni iniziali della bozza di decreto, ma insomma sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa in più. Intanto su questo stiamo però cercando di sciogliere almeno le curiosità più generali che sono nella testa dei nostri ascoltatori, che magari sono intenzionati a fare qualche lavoro di ampliamento della propria abitazione, ma anche intenzionati possibilmente a demolire e ricostruire una casa. Saverio, perché questo aspetto non l'abbiamo affrontato ancora. No, però è stato confermato dal Presidente del Consiglio ieri, appunto come uno dei due cardini del provvedimento, no? La possibilità di demolire e ricostruire beneficiando di un bonus volumetrico pari al 35% del volume preesistente. Quindi abbatto una casa, non so, di 1000 metri quadri, nei millimetri cubi, ne posso ricostruire una di 1350 metri cubi. La condizione però necessaria è che siano utilizzate tecniche costruttive di bioedilizia o fonti di energia rinnovabile o risparmio delle risorse idriche potabili. Allora, a parte che queste norme questi concetti sono abbastanza regolati da una serie di norme regionali, ma naturalmente non da tutte le regioni, non tutte e tre nella stessa regione. Quindi per molti aspetti c'è un vuoto normativo. Perché dico vuoto normativo? Perché si tratta di concetti che sono nuovi per le nostre leggi. Infatti. E quando non si stabilisce che cosa vuol dire, o si accetta l'idea della soluzione selvaggia, per cui uno costruisce un normalissimo palazzo e poi sopra ci mette dei vasi da fiori e dice questa qui è la bioedilizia, oppure ci sono dei principi che peraltro in Italia sono studiati da architetti, da centri studi molto autorevoli, sì. E li si prende come riferimento proprio dal punto di vista dei numeri. Cioè si dice bioedilizia vuol dire usare questi materiali in questa percentuale, oppure energia rinnovabile vuol dire che l'immobile deve essere autonomo dal punto di vista della produzione di energia in questa percentuale, usando queste tecniche e magari non altre. E per quanto riguarda il risparmio delle risorse idriche potabili, esistono delle tecnologie, quindi bisogna renderne obbligatorio l'utilizzo, altrimenti uno può dire, beh, io ho fatto i rubinetti più piccoli, quindi ci metto tanto a riempire la vasca, non faccio il bagno, faccio solo la doccia, perché sennò ci metterei troppo. È questo, chiaro che la cosa diventerebbe l'italiana grottesca, no? E quindi è un articolo, questo, assolutamente vuoto di contenuti per ora, però è molto interessante che sarà riempito, esattamente. Allora, intanto vi ricordo anche che l'altro nostro ospite, Giulio Benedetti, sostituto procuratore della Repubblica in Milano, esperto di tematiche fiscali anche per condominiali anche per il Sole 24 Ore. Allora, altre domande da parte dei nostri ascoltatori all'800240024. Riccardo dalla provincia di Livorno, benvenuto. Riccardo, buongiorno. Eccoci. Sì, buongiorno. Ci dica. Niente, no, può essere, come dice lei, una curiosità che nasce nella testa nostra, no? Di chi vuole fare un ampliamento. Sì. A voler essere sul Sole 24 Ore, un ampliamento se 20 metri, 20% della cubatura in metri quadrati, cioè il rapporto tecnico per quello che mi riguarda era ampliare il sottotetto mantenendo l'alterata la superficie coperta. Sì. Qual è? È sempre il 20%. Riccardo, sentiamo Saverio Fossati se ci può aiutare. Sì, cioè, nel senso, se uno ha un edificio, non so, di 300 metri cubi, potrà, un edificio unifamiliare di 300 metri, come se su due piani, no? Ecco, una villetta abbastanza grossa, potrà ampliarlo di una sessantina di metri cubi, ecco tutto. Quindi praticamente prendere il sottotetto e renderlo abitabile, in che modo? Ovviamente, probabilmente, immagino, alzando la falda, quindi rendendolo, alzando la falda, alzando il colmo del tetto, aumentando quindi l'altezza delle pareti, per così dire, che lo circondano, e quindi diventa abitabile, mm-hmm. diventano 60 metri cubi abitabili e basta. Questo è, in sostanza, è molto semplice, è quello che, la soluzione che sceglieranno probabilmente molti proprietari di villetta. Allora, ma se un vicino, ci scrive un ascoltatore, Alfredo, al 349-238-6666, rialzando il tetto attaccato davanti al mio terrazzo, mi copre la visuale, è un'operazione possibile da fare, sono molto preoccupato, questo vicino ci ha già provato, se mi chiude il terrazzo devo cambiare casa. Allora, come la discipliniamo questa questione? Magari vediamo il sostituto procuratore. Come la vede? La domanda è molto intelligente e molto pertinente, perché noi ci dimentichiamo che tra le costruzioni devono esserci delle distanze legali che il codice stabilisce in 3 metri e i regolamenti edilizi fino a 10 metri. Allora, tutta questa manovra avrà dei grossi limiti quando le case sono una attaccata all'altra. Non so, le case a schiera. Certo. Se la normativa non deroga alla normativa civilistica sulle distanze e sulle vedute, praticamente questo impedirà l'ampliamento. Questo è un po' il punto. Infatti, per questo dobbiamo vedere la legge cosa dice. Perché se deroga o abroga quelle norme del codice civile, si potrà fare praticamente tutto nei limiti volumetrici. Altrimenti, ovviamente, chi amplia un edificio togliendo la vista o non rispettando le distanze legali può vedersi citato a giudizio di fronte al giudice civile. Questo è un problema che si pone. Per questo io dicevo, è importante rivolgersi al professionista, che il professionista sa queste cose e prima che io metta un mattone mi dice quel che devo fare. Saverio, volevi... Sì, solo per dire, perché una volta tanto su questo aspetto la bozza del 19 marzo era abbastanza chiara, quando ricordava in modo esplicito che questi interventi non sono effettuati comunque nel rispetto della normativa esistente relativa alla stabilità degli edifici e di ogni altra normativa tecnica e nel rispetto delle distanze e delle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali a tutela dei diritti dei terzi. Quindi perfetto. Il discorso che faceva il dottor Benedetti è, per così dire, in un certo senso stato previsto anche in questa norma, dicendo state attenti che comunque la deroga è una deroga alle norme urbanistiche e non a tutte le altre norme. Quindi se una la sventura che la villetta ce l'ha troppo vicina e viola il diritto di veduta, la distanza, non lo può fare, lo fa sul rischio, perché poi il vicino gli fa causa e vince. Quindi, insomma, teoricamente nostro amico dovrebbe essere al riparo da qualsiasi possibile sorpresa che gli può combinare il vicino, anche se dice che in passato ci ha già provato. Evidentemente non è andato a buon fine il suo tentativo di chiudere la visuale ad Alfredo. Luca da Vicenza. Sì, buongiorno. Rapidissimo, perché siamo quasi in chiusura, la ringrazio molto. Sì, buongiorno a tutti. Allora, niente, io volevo solo chiedere, avevo sentito delle voci che riguardavano sempre dell'ampliamento, ma tipo tettoie anche per auto, oppure tipo gazebo in legno, cose del genere, che erano legati però alla copertura col solare. Sì. Luca, allora aspetti un attimo, che ci stiamo interrogando con Saverio che cosa può essere riconducibile questa voce che ha sentito. Ma il gazebo di per sé non è neppure una costruzione, perché il gazebo tecnicamente è semplicemente una mobile, tenda con, esatto, delle, con un'armatura in legno, quindi non c'è neanche bisogno di chiedere l'autorizzazione. La se invece, adesso magari non ci intendiamo sui termini, insomma, ma se invece si fa una nuova costruzione, intendiamoci, l'ampliamento avrebbe dovuto avvenire in linea di massima in contiguità, cioè attaccato proprio all'edificio, però nella legge regionale Veneto, che secondo me rimane ancora un esempio che i nostri ministri stanno studiando, si prevedeva che quando è impossibile questo, per come è fatta la villetta, la struttura, il giardino, si può anche fare una piccola costruzione non in aderenza. Ecco, e la si può fare tranquillamente considerandolo un ampliamento. Quanto poi al pannello solare, questo è un altro discorso, riguarda l'agevolazione del 55% di detrazione sul risparmio energetico, ma non è naturalmente che il fatto di voler fare un pannello solare giustifichi una nuova costruzione apposita che sta sotto il pannello solare, ecco, tanto per chiarire. Se qualcuno avesse questa tentazione, insomma, che la smonti abbastanza rapidamente. Però sono temi sui quali torneremo. Questa mattina, come ribadisco, abbiamo viaggiato molto sul condizionale, però ci piaceva sollecitare l'attenzione dei nostri ascoltatori anche su questo argomento, in modo tale che qualora, nel momento in cui la legislazione diventerà più precisa dell'argomento, chi ha voglia di fare i lavori che vuole fare per la propria casa, per ampliarla, demolirla e ricostruirla, sa bene, insomma, che c'è un provvedimento in procinto di essere varato. Grazie molte a Saverio Fossati e a Giulio Benedetti per essere stati con noi, in particolar modo a Benedetti per avermi aiutato in emergenza questa mattina. Grazie a Gaia Romani e a Valeria Coffaro per la collaborazione in redazione. Questa mattina Valeria Bernardi in assistenza tecnica. Salva Danaio torna domani. Vi auguro una buona giornata. Salva Danaio.